400 vittime ancora registrate, scende. Segnali positivi che fanno tenere l'attenzione puntata sulla cosiddetta fase 2, ossia la ripartenza. L'attesa è per il fine settimana, quando il Premier svelerà qualche dettaglio tra le mille ipotesi che continuano a rincorrersi: uno scaglionamento fino al 18 maggio, le incertezze sul trasporto pubblico, qualche indecisione su scuole, asili, parchi e sport, e anche sugli over 60, che alcune ipotesi vorrebbero chiusi in casa e isolati. Poi, certo, c'è il Consiglio europeo di ieri, con un bicchiere mezzo pieno per il governo. Passa la linea francese del fondo per la ripresa, ma non si sa ancora come verrà finanziato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare oggi cambiando un po' musica. "24 Mattino" di Simone Spezia. E dai, oggi come si faceva a non iniziare così? Primo brano dal 2012 per i Rolling Stones, che ieri sono usciti a sorpresa con un pezzo dedicato esattamente alla situazione di Covid-19. Inizia con Mick Jagger che ci canta "Sono un fantasma in una città fantasma". Insomma, lo sentite, che parla di lockdown Mick Jagger. Chissà come la vedono gli Stones questa storia, questa ipotesi di tenere appunto i sessantenni chiusi in casa e isolati. Direte che gliene frega a loro che vivono nelle loro mega ville. Buon pezzo comunque, mi pare, ragazzi, mi pare buon pezzo. Allora, iniziamo con Filippo Oreggi in regia, Miriam Lucchetti in assistenza in redazione insieme a Giorgio De Luca. E voi ovviamente al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, fatemele sentire, come va? Come sta andando? Vi preparate a questo fine settimana? Cosa fate da lunedì? Perché alcune attività ripartono già lunedì, Allora, la giornata di ieri con appunto un bollettino che ci consegna qualche segnale positivo. Il ministro Speranza. Oggi per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il numero dei guariti è superiore al numero dei nuovi contagiati. È una bella notizia importante che ci dice che le misure adottate stanno funzionando e che il sacrificio fatto da tanti italiani ci sta portando sulla strada giusta. Ora bisogna insistere ancora con grande gradualità, con grande attenzione e col massimo della prudenza. Il Locatelli, il Consiglio Superiore di Sanità, è sul tema della riapertura delle scuole, perché comunque un po' se ne dibatte, se ne continua a dibattere. Vi ricordo tra l'altro che oggi dedichiamo un Radio Day a questo, Radio 24, nei suoi programmi, anche da noi alle 8:20 con Maria Ratella ne parleremo. Insomma, ci occupiamo proprio di questo, anche di riapertura delle scuole. Locatelli. La scelta di raccomandare di mantenere l'interruzione delle lezioni di didattica frontale è stata esattamente dettata dal fatto che nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività produttive avrebbe comportato certamente l'andare oltre e non di poco l'indice di contagiosità attualizzato oltre il valore soglia di 1. Quindi questa la decisione, da questo è scaturita la decisione. Di certo un po' se ne discute perché in Francia parzialmente si sta ripartendo, in Germania come sapete un po' più decisamente. Oh, Locatelli, che tra l'altro sta diventando una specie di fenomeno social e non solo, perché? Perché usa un ottimo italiano, e quindi c'è una legione di pazzi che su Twitter ogni volta arriva Locatelli in conferenza stampa ne twitta, no, le parole un po' più insomma, un po' più complicate, un po' più, ecco, lo uso anch'io, un po' desuete. E allora sentiamolo per esempio sulle mascherine. Fenomeni speculativi altamente deprecabili e biasimevoli, soprattutto in una situazione come questa. E vabbè, questo modo un po' così che lo sta anche rendendo un personaggio in questa situazione difficile. Il tema è, tra l'altro, sulle mascherine si sta ragionando su prezzi controllati ed è anche quello che chiedono per esempio le farmacie. Il tema della riapertura, ci sono i ragionamenti che ci sono, che si fanno nelle varie regioni. A questo punto ci sono anche dei contrasti, a quanto pare, tra i sindaci e le regioni su questo fronte. Come ripartire, quando. Questo governo che illustrerà la strategia nel fine settimana, in questo fine settimana, almeno speriamo, anche perché appunto manca una settimana circa quella data fatidica del 4 maggio che dovrebbe segnare la ripartenza. Il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Vediamo se sarà possibile riaprire qualcosa già dal 27 aprile. Proprio in queste ore si stanno definendo però quelle che abbiamo chiesto come indispensabili, cioè le linee guida nazionali, sapere quali sono i comportamenti che ognuno dovrà tenere a partire dal protocollo di sicurezza dei luoghi di lavoro, il distanziamento sociale, gli strumenti di protezione individuale, come recarsi al lavoro, cioè il tema ad esempio al di là dei mezzi privati, del trasporto pubblico locale. Ecco, questi due giorni saranno decisivi per decidere come e quando, ma qualcosa finalmente ripartirà. E già avevamo sentito ieri che il sindaco di Milano, Beppe Sala, insomma un po' irritato, aveva detto: sì, ma il governo non mi dica 48 ore prima che cosa devo fare, perché ho da gestire una città di tot milioni di abitanti. Cioè, un po' sulla stessa linea anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, sentiamolo. No, non c'è un piano. No, noi leggiamo i giornali e la mattina cerchiamo di, dalle anticipazioni giornalistiche, cerchiamo di capire che cosa è nella testa del governo o della regione. Ovviamente sviluppiamo una riflessione anche locale, ma che non può essere come dire, prevalente. Cioè non è che ogni comune si deve reinventare il trasporto pubblico, la scuola, eccetera, anche perché non abbiamo competenze dirette su questi. C'è la commissione Colao per questo, no? Per la ripartenza. Per ci dire, sono quindi molte commissioni, io sono molto, sono un estimatore di Vittorio Colao e quindi spero che da quella commissione nascano delle linee guida chiare. Linee guida che stanno già girando ieri, insomma, in varie chat istituzionali, praticamente ce l'hanno tutti, tant'è vero che sui giornali le trovate, però poi la decisione spetta alla politica naturalmente. C'è l'altro fronte, quello del Consiglio europeo, con il Presidente del Consiglio Conte che porta a casa quella che lui sostiene essere una vittoria. Sicuramente il bicchiere è mezzo pieno per l'Italia. Viene dato il via libera a questo Recovery Fund sulla base dell'idea francese, anche se non sappiamo ancora come verrà finanziato. Conte. Tutti e 27 paesi hanno accettato, abbiamo accettato di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. Ovviamente non la vede così Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Le condizionalità cosiddette light, quindi questo famoso senza condizioni, durano un anno. Dopo? Sai che significa del debito? Significa una trappola per topi. C'è il formaggio, 36 miliardi. Tu sei il topo, entri nella gabbia, perché c'è il formaggio di questi 36 miliardi che ti stanno regalando, secondo la sinistra, e ti scatta la tagliola. Fra un anno ti entra la troica dentro casa. Ed è la storia ovviamente del MES, del Fondo Salva Stati. Mentre invece Matteo Renzi la vede meglio. Ha vinto Macron e Conte ha fatto bene a seguirlo. L'Europa ha fatto tutto quello che doveva fare. Perché l'Europa ha fatto l'intervento sulla BCE. L'Europa ha fatto l'intervento sulla Banca Europea degli Investimenti, ha tolto il patto di stabilità e crescita, ha messo in campo una strategia che aveva chiesto Padoan 5 anni fa, che si chiama SURE, un progetto sulla disoccupazione, e oggi ha messo in campo il Recovery Fund proposto da Macron. Bene ha fatto Conte a seguire e inseguire Emmanuel Macron, che è il vincitore della giornata di oggi. Dopodiché noi siamo circondati da 2 o 3 aspiranti sovranisti, reali cialtroni, anti-MES. Così Renzi. Allora, Vittorio Borelli è un giornalista, ha lavorato a lungo, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, insomma si è occupato di economia, adesso cura una rubrica per investire. Vittorio, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, allora. Buongiorno anche ai radioascoltatori. Allora Vittorio, poi con te voglio parlare un attimo perché hai, non dico lanciato un'iniziativa, però stai combattendo una battaglia su questa storia degli over 60, ne voglio parlare con te tra un attimo. Però innanzitutto dimmi, come la leggi questo esito del Consiglio europeo? Ma direi che è andato secondo le aspettative, e cioè si sapeva che non sarebbe stato possibile arrivare ad un accordo definitivo ieri, si è arrivati ad un passo da un accordo definitivo, ma credo con degli impegni piuttosto espliciti da parte di tutti gli Stati. Resta, come hai già detto tu, il problema del come si finanzierà questo fondo europeo. Evidentemente lì ci sono opinioni diverse, però mi sembra che il clima sia un clima d'accordo da raggiungere abbastanza presto, perché la dichiarazione della Merkel va esattamente in questo senso. Quindi sì, direi che se non è una... Merkel che ha parlato di necessaria solidarietà all'interno dell'Unione Europea, esatto, cioè è stato un discorso forte quello di Merkel appunto su questo fronte. Quindi, per così dire, rispetto a ieri avevamo delle aspettative di rinvio, temevamo che tedeschi e olandesi portassero a un temporeggiamento che ci avrebbe spinti fino a giugno. In realtà questo non è avvenuto sul quadro generale, è un po' più invece appunto sul metodo di finanziamento di questo Recovery Fund. Certo, no? Certo, ma d'altronde questo è l'Europa. Noi parliamo di Europa dimenticando spesso che l'Europa è fatta da stati, i quali stati hanno governi diversi che la pensano diversamente e opinioni pubbliche che la pensano diversamente. Quindi bisogna anche fare uno sforzo per capire i problemi degli altri, oltre che cercare di affermare giustamente i nostri. Sì. Non c'è dubbio che così è, cioè nei paesi del nord è radicata la convinzione che non si debba in questo momento mutualizzare i debiti degli stati, perché altrimenti loro si troverebbero a pagare per debiti che non sono loro ma sono dei paesi del sud. Questo è ovviamente, si può anche discutere se sia pienamente giustificato o meno, ma certo che è un dato di fatto. Sì, è un po', per così dire, parlare, lo diciamo spesso, ma parlare di eurobond o di obbligazioni europee con i paesi del nord è speculare al parlare di MES da noi, di in fondo salva stati da noi, cioè ha lo stesso impatto anche sulle opinioni pubbliche, quindi per questi governi non è facile da gestire. Senti Vittorio, ti voglio portare su questa questione della fine del lockdown, questo 4 maggio, questa data che tutti quanti stanno aspettando e poi vedremo come sarà, perché perché aspettiamo il fine settimana, Conte che parla, il piano di Colao. Tra l'altro, tra i due ci sarebbe stato uno scontro esattamente su questo tema degli over 60, no? Questa idea, no, gli over 60 devono rimanere a casa isolati, ci sarebbe, avrebbe detto la task force guidata da Colao, con Conte che dice no, ma insomma, come facciamo, no? Su questo hai alzato un po' di polvere, no? Ti sei lanciato nella battaglia, ecco. Sì, faccio una premessa, io non sono iscritto al partito dei Bartali, tutto sbagliato, tutto da rifare, né rispetto al governo né rispetto alle regioni. In generale, visto il cataclisma in cui siamo stati coinvolti, credo che si sia fatto quello che si poteva fare ed era anche molto difficile fare di più, che naturalmente non vuol dire che non siano stati fatti degli errori, ma insomma hanno una spiegazione abbastanza semplice e logica. Detto questo e detto quindi che io non sono affatto ipercritico, ho trovato quest'idea di differenziare, no, il lockdown per fasce di età, l'ho trovata sbagliata. Ci sono tre aggettivi che io direi, no? Il primo, sì, si tratterebbe di un provvedimento discriminatorio perché in uno stato di diritto come siamo, fino a prova contraria, non si può legiferare contro una parte della popolazione. Questo l'ha spiegato molto bene un ex presidente della Corte Costituzionale come Gustavo Zagrebelsky, sì, che in una intervista alla stampa ha detto sicuramente qui sentirei odore di incostituzionalità. Sì. Il secondo aggettivo che userei è che si tratterebbe di un provvedimento non equo, cioè iniquo, sì, nel senso che non tiene conto del fatto che costringendo una parte della popolazione a restare ancora segregata in casa si creerebbero delle grandi disparità. Adesso un conto, facciamo degli esempi molto, molto terra terra, un conto è fare una quarantena in una propria villa a Nizza, sì, come fa Berlusconi, e un conto è Tommaso Vitiello di Scampia che deve fare la quarantena in un appartamentino di 40 metri quadri magari, certo, con altre persone in casa. Certo. Allora, per un po' una situazione del genere è sopportabile perché, sì, è supportata da tutti. Ma nel momento in cui si comincia a distinguere tra questo e quello, tra quelli che hanno gli occhi azzurri o no, tra quelli che gli alti e i bassi, allora a questo punto evidentemente diventa automatico. Vabbè Vittorio, però dai, è un po' diverso. Aspetta un attimo, ci prendiamo una pausa per il traffico e rientriamo, tra l'altro, Filippo Aureggi, rientriamo con la voce di Fiorello che dice rassegniamoci, via. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Salve, buongiorno. Sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960, significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso quindi i 60 anni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi 60 anni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i 60 anni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo persone da proteggere. Noi andiamo protetti, perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya. Come il cercopiteco. Allora, Vittorio, parla facile, lui che avrà una casa che noi ce la sogniamo, naturalmente. Parla facile, Fiorello. Senti, mi manca il tuo terzo aggettivo. Il terzo aggettivo è estemporaneo, cioè sarebbe un provvedimento, sarebbe perché Fiorello dà per scontato che venga deliberato questa misura, mentre ancora non mi risulta che sia stato fatto e né che abbiano intenzione di farlo. Ma detto questo, estemporaneo perché? Perché come dire, passa l'idea di anziano uguale anziano del pronto per il trivulzio, per il più albergo trivulzio, che è una caricatura della realtà. Sono anni e anni che l'Istat, piuttosto che il Censis, piuttosto che tutti i sociologi da talk show ci spiegano che gli anziani, a partire dai 60 anni in su, fino almeno a 80 o anche più, sono una parte estremamente attiva della società. Hanno ancora un ruolo economico, hanno ancora un ruolo importante nel turismo, hanno ancora un ruolo importante nello spettacolo, perché sono quelli che vanno al cinema, che vanno al teatro. E sono anche quelli, peraltro, che vanno a fare il jogging al parco piuttosto che la bicicletta su le colline. Quindi l'idea di appiattire tutto è un po' un'idea che nasce, non so, forse nel secolo scorso, quando arrivati a 50 anni effettivamente eri già pronto per andare a giocare a briscola con i tuoi compagni di sventura in attesa della morte. Quindi questa idea caricaturale dell'anziano è una cosa da contrastare. Non corrisponde. Ma tra l'altro fatemelo dire, nel ringraziarti, grazie Vittorio Borelli, molti ascoltatori tra l'altro ci stanno scrivendo, dicono non tutti gli over 60 sono in pensione, e te credo, non solo, ma ti dirò, ma quanti over 60 abbiamo richiamato in corsia nell'ultimo mese, in corsia negli ospedali, quanti medici over 60 abbiamo richiamato in ospedale, appunto in corsia in questi mesi. Insomma, sarebbe veramente veramente curioso, insomma, anche se fosse per gli over 70, certo, e a loro tutela, per carità, insomma, però consentiteci qualche perplessità. Grazie Vittorio Borelli, alla prossima. Allora passiamo a uno studio interessante realizzato nei giorni scorsi, o meglio diffuso nei giorni scorsi dall'Università Ca' Foscari di Venezia, realizzato insieme anche al Politecnico di Milano, un'università di Bari e altri, uno studio citato anche ad esempio dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. In un suo editoriale sul Washington Post, insomma, il tema appunto sono un po' gli effetti che ha avuto il lockdown anche sui singoli comuni. Siamo in linea con Walter Quattrociocchi, che è esperto in network e sistemi complessi all'Università Ca' Foscari di Venezia, ma anche componente tra l'altro della task force di 74 esperti del Ministero dell'Innovazione. Quattrociocchi, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, cosa emerge da questo studio? Fondamentalmente ha la peculiarità di fare un punto, nel senso, piuttosto che speculare un pochino sugli eventuali impatti e effetti del lockdown, siamo andati praticamente attraverso alcuni dati che ci ha messo a disposizione Facebook nell'iniziativa Data for Good, dove fondamentalmente hanno cominciato a collaborare con le università per questioni, diciamo, umanitarie. Siamo andati a vedere come è variata la mobilità prima e dopo il lockdown, e una volta capito quali erano i comuni in cui questa mobilità è diminuita maggiormente, siamo andati ad incrociare con alcuni dati econometrici. Sì. Questo grazie al contributo del Politecnico di Milano con il professor Pammolli, e quello che abbiamo più o meno notato è che la carta d'identità dei comuni più colpiti riguarda i comuni con alto indice di deprivazione fiscale, ovvero l'impatto del lockdown praticamente non c'è avuto un impatto omogeneo su tutto quanto il territorio nazionale, ma in qualche modo ha colpito le aree più povere. Okay, quindi abbiamo scoperto in qualche modo l'acqua calda da questo punto di vista. Sì, per certi versi, però è comprovata dai dati, insomma, ecco, quindi ci sta per certi versi. Sì. E poi il suggerimento che ne viene è che se si vuole tener conto di un intervento di ripresa, bisogna tener conto di questa eterogeneità dell'impatto, che in qualche modo dovrebbe andare a completare prima le aree che sono state maggiormente colpite, diciamo. Quindi insomma il ragionamento, per così dire, insomma, è uno studio fatto su quello che è successo durante il lockdown, ma che contiene implicito anche un riferimento per il futuro, mi sembra di capire, Quattrociocchi. Sì, diciamo che l'intenzione, diciamo, un po' è quella di ultimamente c'è questa moda, no, di utilizzare la scienza dei dati per fare delle decisioni politiche, insomma, o quantomeno dare degli strumenti di supporto, di ausilio. In questo contesto diciamo che questo studio va in quella direzione, nel senso c'è un tentativo di capire come ha funzionato il processo, l'impatto che ha avuto e quindi da lì prendere delle decisioni in qualche modo, quindi supportare la scelta della politica nella strategia di ripartenza. Grazie a Walter Quattrociocchi, esperto di network e sistemi complessi all'Università Ca' Foscari di Venezia, componente appunto della task force di 74 esperti del Ministero dell'Innovazione. Un ascoltatore ci dice, potreste spiegare meglio in cosa consiste questo recovery fund al quale ha dato il via libera ieri il Consiglio europeo? È un fondo per la ripresa, la traduzione esatta è un fondo per la ripresa, cioè sono soldi che verranno messi per aiutare i paesi europei a recuperare dopo la crisi da Covid-19. Quello che non si sa ancora è come verrà finanziato, perché si vorrebbe con l'Italia e alcuni altri paesi vorrebbero con debito comune europeo, i paesi del nord fanno un po' di resistenza, su questo si ragionerà. Nel frattempo un po' di risultati ieri sono stati ottenuti a partire dall'ampliamento del budget comunitario, che era un'altra cosa alla quale la Germania si è sempre opposta fieramente, mentre invece ha dato il via libera, no? Appunto all'ampliamento del budget comunitario. Con cosa andiamo a chiudere? Come vi dicevo, oggi a Radio 24 ci occupiamo molto di scuola. E quindi il tema della riapertura, sì, no, perché si chiude fino a settembre, si è portato spesso l'esempio francesi che però, insomma, dopo che Macron ha detto riapriamo l'11 maggio, hanno fatto un po' di marcia indietro, Così il professor Galli a Piazza Pulita sul tema delle riaperture della scuola in Francia. Non facciamo ridere, voglio dire. Lei pensa che in Francia siano in grado di riaprire in condizioni diverse da quelle c'erano quando le scuole le hanno chiuse? Ma certamente no, non in questo breve periodo, e perché non sono in condizioni né loro né nessuno di modificare le condizioni strutturali in cui le scuole versano. Non l'hanno fatto certo in questo breve periodo. Secondo me la riapertura delle scuole non è una priorità, per quanto triste sia la cosa. Così dunque Galli. A chiudere cosa mettere? Beh, questa voce di Donald Trump. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. Insomma, qua Donald Trump ha detto una cosa incredibile, ma incredibile. Ha detto: la luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo, cioè iniettare il disinfettante nel corpo per sconfiggere il coronavirus. Naturalmente sono rimasti tutti basiti, speriamo che nessuno lo prenda in parola. Ormai abbiamo preso questa via, anche se poi si ripartirà e le città non saranno più delle ghost town, delle città fantasma. Questo pezzo degli Stones vale la pena, scritto apposta, è uscito ieri, ce lo teniamo anche nei prossimi giorni. GR24 a tra poco con la rassegna stampa.